Radio 3 Lezioni di musica. Giovanni Bietti. La musica profana vocale del Cinquecento, prima parte. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Nuova coppia di lezioni di musica dedicate al Cinquecento, questo meraviglioso periodo della storia della musica che stiamo esplorando pian piano. Nelle quattro puntate precedenti abbiamo parlato della musica sacra. Il Cinquecento è un momento cruciale per la musica sacra europea. Parliamo invece oggi e domani di musica profana, sempre vocale, e in particolare di un genere estremamente diffuso nel Cinquecento, che era la musica di intrattenimento, diciamo la musica leggera per intenderci, genere esplorato dai compositori nelle forme più varie. Abbiamo già avuto la possibilità nella prima serie di lezioni, la prima coppia, di sentire un genere quattrocentesco, La Frottola, un brano di Josquin des Prez. Oggi parliamo di alcuni brani più tipicamente cinquecenteschi, parliamo della chanson francese, parliamo della villanella, un curiosissimo genere che si sviluppa, esplode, ha un enorme successo in Europa, e parleremo poi del balletto. Specifico subito che la musica di intrattenimento è un termine che io non considero affatto negativo, dato che parliamo di un repertorio che è estremamente vario, molto divertente, e soprattutto è un repertorio che forse meglio di altri ci mostra la vocazione del Cinquecento, una vocazione veramente cosmopolita. È il modo in cui i musicisti guardavano ad altre culture, altre influenze. E tanto per dire, sicuramente è in parte da questo repertorio che si sviluppa la musica strumentale, perché i compositori spesso scrivevano questi brani per 3, 4, 5 voci, quindi erano brani che si presentavano esteriormente come polifonia vocale, ma sappiamo, e lo sentirete anche oggi in alcune delle esecuzioni che vi proponiamo, che spesso questa musica era suonata con l'uso di strumenti. Gli strumenti potevano raddoppiare le voci, potevano sostituirle, potevano i brani presentarsi come un brano a voce solistica con accompagnamento di strumenti che eseguivano altre linee che il compositore aveva scritto per le voci. Quindi appunto una parte della storia della musica strumentale passa attraverso questo repertorio. Il primo compositore di cui parliamo è un grande compositore francese, Clément Jeanneken. Jeanneken che nasce intorno al 1485, muore nel 1558, e Jeanneken eccelle in particolare nel genere della chanson. Chanson francese, un brano polifonico, naturalmente in lingua francese, che ha una etimologia estremamente interessante, perché chanson viene da chant e son, cioè insieme, guarda caso, c'è il canto e il suono, prelude già all'idea del cantare e suonare. La chanson è un genere che ebbe enorme successo, ne esistono già quattrocentesche diverse. Jeanneken è un po' il punto culminante della chanson. Anche in questo caso la storia di questo genere si intreccia con l'editoria musicale. Ne abbiamo parlato a più riprese nelle puntate precedenti. L'editoria musicale nasce nel 1501 ad opera di Ottaviano Petrucci a Venezia, e guarda caso proprio nel primissimo libro pubblicato nel 1501 ci sono diversi esempi di chanson francesi. In particolare la chanson è legata all'attività di un grande editore francese che vive nella prima metà del Cinquecento, Philippe Attegnan, che pubblicherà molte raccolte, fra cui quasi tutti i brani di Clément Jeanneken di cui parliamo. Jeanneken compone circa 250 chanson, quindi una produzione molto nutrita, molto abbondante, e tra queste le più famose, senza dubbio anche le più impressionanti, le più interessanti, sono le chanson descrittive. Descrittive, ossia Jeanneken descrive una scena di genere, una situazione in genere molto concitata, molto mossa, attraverso un uso abbastanza straordinario di onomatopee verbali, sonore. Quindi lui descrive per esempio una battaglia, la battaglia di Marignan, che era una battaglia che si era svolta all'inizio del Cinquecento, descrive una caccia, descrive in una chanson veramente straordinaria il canto degli uccelli, descrive le urla della città di Parigi, quindi questo intrecciarsi di urla di venditori ambulanti. E volevo farvi sentire una parte di una di queste chanson, che è appunto La Guerre, la chanson dedicata alla battaglia di Marignan, che in qualche modo è un punto culminante di un genere, il genere della battaglia, la descrizione della concitazione battagliera attraverso effetti onomatopeici di questo tipo, che sono realizzati attraverso le voci. Thank you. questo, sono squilli di trombe proprio, sono le trombe che ripetono la singola nota. Il compositore, naturalmente, noi scriveremmo taratatatantan e lui scrive frere lele lan fan, frere lele lan fan fan, quindi usa anche naturalmente la propria lingua per cercare queste onomatopee. È estremamente interessante e importante l'uso di questa ripetizione. Cioè la concitazione data dalla ripetizione, il colpo di lingua dello strumento d'ottone, della tromba in particolare, perché qualcuno di voi forse ricorderà le puntate che abbiamo dedicato a Monteverdi. Bene, Monteverdi codifica uno stile concitato proprio nei madrigali guerrieri, ma questo succederà 100 anni più tardi rispetto a Jeanneken, che quindi in qualche modo è veramente un pioniere. Esplora molte soluzioni che saranno poi dopo sviluppate, che saranno seguite, proseguite, ampliate dai compositori successivi. L'uso dell'onomatopea è uno degli aspetti che rendeva più famosa la chanson francese. Sentiremo anche qualche estratto dalla chasse, la caccia, in cui l'onomatopea è addirittura, sono gli squilli di corno, i richiami di caccia e i cani che corrono, gli animali che fuggono, i versi degli animali, questa concitazione che era uno degli aspetti su cui Jeanneken era in assoluto più forte, più sperimentale. La modernità di questi pezzi è impressionante. Io vi faccio sentire adesso la seconda parte della battaglia di Marignan, la guerra si chiama questa chanson. Quasi tutte le grandi chanson di Jeanneken sono divise in due parti. Una prima parte introduttiva, in questo caso l'introduzione dice: ascoltate, ascoltate, gentili francesi, ascoltate le gesta del re che ha sconfitto i borgognoni. E la seconda parte è proprio la guerra, la battaglia, dove appunto sentite il testo cosa recita. Comincia direttamente con le trombe. Fan fan, frelelelelan fan fan. Boutessel, all'estandard, tu savant, gendarme à cheval. Naturalmente è un francese cinquecentesco. E ancora abbiamo fari rararariron, frelelelelan fan fan. E poi le invocazioni. Bruyé, tonné, bruyé, bombardé, fosson pour entrer sur ces bourguignons. Tete, pedou, pedou. Quindi ci sono onomatopee di tutti i tipi di armi e le incitazioni dei condottieri all'esercito. Ma ascoltiamo direttamente la seconda parte, entriamo nel vivo della battaglia di Marignan. Credo che l'esempio sia molto eloquente, spiega allo stile di questo compositore questa idea di partire da una situazione verbale. Il testo naturalmente non è particolarmente importante, avete sentito quante onomatopee usa il compositore, e costruire attraverso la polifonia, attraverso la tecnica, la più nobile tecnica compositiva dell'epoca, costruire questa straordinaria concitazione del brano. E l'effetto di una modernità incredibile, sia a livello ritmico, sia a livello proprio di evocazione. E questo stile fece scalpore, Vedremo nella prossima puntata in che modo i compositori italiani negli anni abbiano cominciato a ispirarsi a queste composizioni di Jeanne Cain. Ma ne faccio sentire un'altra, vi faccio sentire un estratto, la seconda parte della Chasse, la caccia. In questo caso il testo è ancora più pieno di nonsense, perché abbiamo i versi degli animali, i richiami dei cacciatori, i cani che vengono incitati, l'animale che fugge, un effetto di concitazione veramente incredibile. Naturalmente un ensemble vocale intelligente in brani di questo tipo può veramente divertirsi cercando degli effetti, delle onomatopee, degli effetti scintillanti di concitazione assolutamente magnifica. Sentiamo la seconda parte della Chasse di Clément Jeanneken. Ecco, cominciano a cacciare. Questa era la seconda parte della Chasse di Clément Jeanneken, una chanson descrittiva. Avete sentito l'effetto veramente impressionante di una modernità meravigliosa di questa musica, che finisce con l'uccisione dell'animale da parte del re, che viene invitato proprio, quindi tronc, tronc, è proprio l'onomatopea probabilmente del tagliare, c'è un aspetto descrittivo di una vivacità veramente crepitante in queste composizioni. E domani parleremo del modo in cui i grandi musicisti italiani della seconda metà del Cinquecento si sono ispirati a questa musica per un genere veramente particolare, il madrigale rappresentativo, il genere di cui parleremo nella puntata di domani. Volevo parlarvi adesso di un genere differente, un genere molto singolare che mostra ancor di più questa curiosa vocazione cinquecentesca cosmopolita, lo sguardo verso altre culture, che non è uno sguardo semplicemente grottesco, non è uno sguardo semplicemente esotico, ma c'è una curiosa volontà di confrontarsi con culture differenti. E voglio parlare del genere che viene chiamato villanella o canzone villanesca alla napoletana, villanella, quindi la canzone dei villani, che è un genere che probabilmente ha un'origine davvero popolare, davvero contadina. E l'aspetto curioso di questo genere è che la maggior parte dei brani, la maggior parte delle villanelle scritte, pubblicate dai grandi compositori, sono in dialetto napoletano. Tra l'altro pare che il genere si sia manifestato per la prima volta in occasione di una visita di Carlo V a Napoli negli anni 30 del Cinquecento, credo 1536, e agli angoli delle vie c'erano dei musicisti popolari che cantavano, eseguivano, suonavano delle villanelle. Ebbene, è significativo il fatto che fra i grandi compositori di villanelle ci siano due compositori fiamminghi, cioè non soltanto compositori italiani, tantomeno solo compositori napoletani, ma Orlando di Lasso scrive delle magnifiche villanelle e in particolare il primo grande compositore internazionale che scrive canzoni villanesche è Adrian Willaert, compositore che nasce alla fine del 400, morirà nel 1562, musicista importantissimo, perché passa gran parte della vita a Venezia, a San Marco, maestro di cappella, sarà in contatto con alcuni dei grandi musicisti veneziani del Cinquecento e fonderà letteralmente una scuola. Ancora Monteverdi, nella famosa prefazione del quinto libro dei madrigali, parla di Mastro Adriano, Maestro Adriano, che era quindi considerato veramente come una sorta di capostipite, figura molto importante. Willaert pubblica due raccolte di villanelle che ebbero enorme successo, grande diffusione, genere, come vi dicevo, molto popolare, che nasce in qualche modo dallo stile della frottola, uno stile omoritmico in cui le voci tendenzialmente cantano tutte insieme, non c'è questa imitazione, questo grande gioco contrappuntistico, quindi l'aspetto ritmico è molto più netto, con degli formidabili giochi ritmici, di grande vitalità. Molto spesso immaginate, a volte il brano è in due, quindi abbiamo... tutto in due, e improvvisamente il brano passa in tre, quindi abbiamo... Improvvisamente è passato in tre, lo sentite, con questo effetto molto singolare, l'alternanza di un metro binario e ternario, tecnicamente, che quindi dà questa grande, grandissima vivacità strumentale. Il brano che vi faccio sentire è una nota villanella dalla raccolta del 1545 di Willaert, si chiama Sempre mi ride sta donna da bene, ed è la storia di un amante che viene deriso dalla donna. Sentite il testo che dice: sempre mi ride sta donna da bene quando passeggio per mezza sta via. La riderella, la pazzarella, non vica ride, non vica ride, non vedi che ride? Ha ha, ridiamo tutti per dargli piacere. Quindi c'è questo curioso gioco, il brano finisce proprio con le risate. Ha ha ha ha ha, ha. Sentirete questo ritmo. Vi ho parlato in precedenza della commistione fra stile strumentale e stile vocale. In questo repertorio si vede molto nettamente. Quindi molto spesso questi brani erano eseguiti all'epoca e sono eseguiti ancora oggi con una voce singola. Il brano è scritto per quattro voci, quindi è un brano contrappuntistico, polifonico, vocale, ma in questo caso viene eseguito da una sola voce accompagnata da strumenti che eseguono le altre linee vocali, a volte restano soli, quindi una strofa, un ritornello del testo può essere eseguito dai soli strumenti. Ascoltiamo Adrian Willaert, Sempre mi ride sta donna da bene. Introduzione strumentale. Thank you. sentite anche gli esecutori molto spesso si divertono nell'eseguire questa musica inventando delle soluzioni che siano più estemporanee, più coinvolgenti, e questo fa veramente parte dello spirito di questa musica. Il repertorio, vi dicevo, profano, di intrattenimento cinquecentesco, che fu praticato da quasi tutti i grandi compositori. Abbiamo appunto anche Orlando di Lasso, scrive Villanelle, scrive chanson, scrive madrigali. Il madrigale è un genere di cui parleremo nelle ultime due puntate di questa nostra serie sul Cinquecento, proprio a chiudere il percorso. Volevo parlarvi adesso di un altro genere, sicuramente un genere secondario, molto leggero, già il nome, il balletto, ma è un genere che all'epoca ebbe un enorme successo, grazie soprattutto a un compositore che è Giovan Giacomo Gastoldi, compositore del nord Italia, che lavorò a Mantova a lungo, e nel 1591 pubblica una raccolta di balletti a cinque voci. Balletti a cinque voci che fu uno dei, come diremmo oggi, dei grandi bestseller dell'epoca. Vendette decine di edizioni, letteralmente. E questo successo dipende da uno stile estremamente semplice, omoritmico. Sentite come molto semplice e facile, le voci, ancora una volta cinque voci che cantano tutte insieme omoritmiche, ma soprattutto con questo che veniva chiamato all'epoca lo stile fallalà, perché il testo dice allieta vita, amor ci invita, e poi abbiamo un piccolo ritornello, fallalalalalalalà, è lo stile fallà, che ovviamente poteva essere accompagnato da percussioni, suonato solo dagli strumenti. I brani potevano, come vi dicevo, possono avere estrema varietà esecutiva, e questa grande vivacità ritmica, questa facilità con cui ogni strofa finisce con questo tan tan la la la la la la, a cui naturalmente poteva unirsi un coro, potevano unirsi i presenti, poteva unirsi chi partecipava o assisteva all'esecuzione. Voi pensate che l'influenza di questi brani è tale che perfino Bach, Johann Sebastian Bach, quindi nel 700, 150 anni più tardi, questa raccolta del 1591, scriverà una corale, un preludio corale per organo, che è una parodia esattamente di questo brano, Allieta vita, amor ci invita, un brano che Gastoldi intitola L'innamorata, Allieta vita, amor ci invita. Abbiamo giusto il tempo di sentire questa composizione e di salutarci. Ci vediamo domani, vi parlerò del madrigale rappresentativo, madrigale drammatico, e soprattutto di questo grande esponente di questo magnifico genere che è Orazio Vecchi. Una buona giornata da Giovanni Bietti. Radio 3 Lezioni di musica. a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare brani di musica profana vocale del Cinquecento dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.